Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. E questo è il primo brano di questa sera, qui in diretta sulla radio che più suona più suona. Ce l'abbiamo ancora in sottofondo ad accompagnarci verso la nostra prima ospite di questa sera, che più che un ospite è un'amica di Radio Stonata, un'amica del viaggio, ed è gradita la sua presenza, di tutti gli ospiti naturalmente che passano qui all'interno del viaggio, però quando arriva lei la attendiamo un po' con trepitazione, con ansia, con tutte le emozioni possibili e immaginabili. Perché? Perché ha sempre qualcosa di bello da raccontarci, poi si impossessa per la radio per qualche puntata e quindi siamo felicissimi di ciò. Lei è Elena Rebbiolo, ciao Elena, buonasera e ben ritrovata. Ciao Beppe, buonasera e un saluto grande a tutti. Vi sono mancata? Ma soprattutto sono mancata a te? Sì, no, sei mancata a tutti, non solo a me, comunque... no, dicevo, no, ma quando torna Elena? Ma quando torna? Infatti Elena è qui questa sera, è ritornata. Allora, mi sono fatta un po' desiderare. Infatti, sì, sì. Fare così, ma le prime donne, le prime donne sono sempre così, comunque, si fanno attendere e desiderare. Sennò... Esatto, esatto, è stata proprio una tecnica la mia, ma adesso vi farò compagnia per così tanto tempo che avrete tempo di stufarvi di nuovo. Infatti, secondo me così andrà a finire. No, ci porti fino a Natale, arriviamo fino a Natale, poi lo scambio dei doni, le cose, quindi poi va bene così, no? Esatto, esatto, sono arrivata per le feste io. Infatti, con tanti doni e tanti racconti di viaggio soprattutto. Ma questa sera, Elena, ci parli, ci dai lo spunto per poi andare anche a leggere i tuoi articoli, che sono su nonsoloturisti.it, sono articoli di qualche mese addietro, perché il viaggio comunque l'hai fatto in estate, e questo viaggio parte da lontano però, parte da tanto, perché ci ha voluto tanta organizzazione, ed è un viaggio in Colombia, vero Elena? Esatto. In realtà poi gli articoli non sono, cioè forse questi di cui parlerò oggi effettivamente sono un po' meno recenti, sono i primi che ho scritto appena arrivata, però sto scrivendo ancora adesso di Colombia, questo no, dimostra quanto ci sia da raccontare su questo no, paese. Sai perché sono rimasto soprattutto? Perché il primo articolo mi sa che l'hai scritto mentre eri in Colombia. In realtà appena tornata, appena, per quello appena. Che ho detto, le emozioni a caldo, cioè appena tornata, che cosa mi aveva lasciato questo viaggio, quali erano le prime impressioni, perché come ho scritto nell'articolo mi ha sorpreso molto e ha decisamente superato le mie aspettative come viaggio. Come dici tu, tra l'altro, non è stato semplicissimo organizzarlo, per fortuna ho avuto la fortuna di trovare questo contatto di questo ragazzo Luca, italiano, che vive in Colombia oramai da anni, che è stato un angelo per noi, che ci ha guidati in questo immenso paese per capire come sfruttare al meglio le nostre 3 settimane di viaggio, perché non è facile capire che cosa vale la pena visitare, detto che quasi tutto vale la pena visitare, però a che cosa dare precedenza. Io vorrei partire proprio dall'inizio invece, dall'organizzazione di questo viaggio in Colombia, Elena. Come è nata proprio l'idea di andare in Colombia? Perché? Cosa ti ha spinto per arrivare in Colombia? Allora, cosa mi ha spinto? Adesso ti do la risposta che secondo me tutti si aspettano. Ho visto Narcos, rimasta così affascinata da Narcos. No, infatti, io sai perché te l'ho chiesto? Sai perché te l'ho chiesto? Perché io ancora non ho visto Narcos, non penso di vederlo, però pensavo che poteva essere così scontata come domanda, però che non c'era dietro una risposta così altrettanto scontata, quindi per questo te l'ho chiesto. In verità ho dato la risposta che tutti si aspettavano, ma non è quella giusta. Io sono un'appassionata di Narcos, lo ammetto, e consiglio a tutti di vedersi anche la stagione 3, anzi la 4, fantastica, sul Messico. Però a parte questo piccolo momento Netflix... No, in realtà, come ti ho già detto tante volte, io ho 2 continenti di cui sono innamorata, in modo speciale, e sono l'Africa e il Sud America. Il Sud America, pian pianino, devo dire, l'ho fatto praticamente tutto, mi mancano pochi posti, e mi rimaneva in sospeso questo immenso paese che era la Colombia, e confrontandomi con altri viaggiatori, tutti me ne parlavano davvero, davvero bene. Per cui è stata questa la vera ragione, non è stata non è stato Narcos, anche perché in realtà come serie non è che incentiverebbe tanto la visita del paese, ma è questo, ecco, forse quella Colombia che noi conosciamo, almeno quella di cui abbiamo forse un'idea, è più quella Colombia lì, la Colombia di cui si parla nelle serie TV, nei film che abbiamo visto, quindi criminalità, spaccio di droga. Io ho trovato una Colombia davvero differente ed è questo, infatti, la cosa che mi ha stupito di più. Per questo la domanda non era poi così tanto scontata, come poteva essere così tanto scontata manco la risposta, perché io nei tuoi articoli ho letto una Colombia diversa, non ho letto quella che in questo periodo passa per la maggiore, non come per dire la Colombia è solo quello, e non è così in realtà, è proprio tu questo racconti. Assolutamente, guarda, devo dire che ultimamente in tanti viaggi noi pensiamo sempre di essere un paese molto avanti, che un po' tutto quello che andiamo a visitare, che non sia Nord America o Australia, sia un po' il terzo mondo. Ecco, il terzo mondo siamo noi, io mi sto rendendo conto che sempre di più è così, e questo è stato molto molto evidente in Colombia. La Colombia è un paese che si è sviluppato tantissimo in questi ultimi anni, ho trovato delle cose che mi hanno sorpreso davvero, un benessere, non voglio dire che la Colombia sia in assoluto un paese ricco, però nei posti che ho visitato c'è un livello di benessere comunque mediamente accettabile, anche un buon tenore di vita in alcune zone, decisamente un buon tenore di vita, un rispetto per l'ambiente. Per esempio, la cosa che a me ha colpito tantissimo è che ovunque, nei ristoranti, all'interno degli alberghi, c'è la raccolta differenziata dell'immondizia. Mi ha sorpreso non trovare una cicca per terra da nessuna parte, che fosse la capitale piuttosto che i paesini. Quindi molta cura, una popolazione, come io ho intitolato il mio articolo appunto, il paese più felice del mondo, perché è una popolazione molto positiva, molto contenta del proprio paese, fiera del proprio paese, dove di sicuro la criminalità esiste, ma non è la cosa principale che viene fuori quando si viaggia in questo paese, assolutamente. Persino la capitale io l'ho trovato comunque un posto che si può visitare tranquillamente, e ho insistito sull'aspetto della sicurezza proprio perché tantissime persone prima che io partissi mi dicevano: ma vai in Colombia, è pericolosissima, ci sono solo narcotrafficanti. No, non è così, non è per niente un viaggio pericoloso il viaggio in Colombia, anzi, devo dire, rispetto ad altri paesi sudamericani, ne cito uno su tutti, il Brasile, è un paese molto più sicuro, ed è anche più sicuro quindi viaggiare anche da soli. E qual è il motivo per cui, perché lo identifichi come un paese più felice del mondo, proprio nel titolo del tuo articolo, cioè parte proprio con questa affermazione, perché lo identifichi? Sì, allora devo dire che è stata un po' una provocazione il mio titolo, e ti dico che infatti non sono stati pochi quelli che mi hanno poi scritto: ah, non è vero che il paese... In realtà io cito una fonte, non è un titolo buttato a caso, ma il Wingallup International Association, che è un ente, ha decretato la Colombia il paese più felice del mondo nel 2017. Loro fanno questa statistica facendo delle domande, ed è risultato che l'87% degli intervistati ha dichiarato di essere felice. Ora pensa, significa che 9 persone su 10 in Colombia alla domanda "sei felice?" hanno risposto di sì. Non è così scontato. Poi io cito altri motivi anche per cui potrebbe essere veramente il paese più felice del mondo, e vabbè, paesaggisticamente ha tutto, ed è quello che io sono andata a scoprire: l'Amazzonia, che è un'esperienza pazzesca, la zona delle colline del caffè, sai, io arrivo dalle Langhe, quindi le colline suscitano sempre in me tanto amore, ma questa zona dell'Eje Cafetero di eterna primavera, per esempio, hanno i Caraibi, c'è tutto a livello paesaggistico. E poi una curiosità: dopo l'Argentina, la Colombia è il paese con più feste nazionali al mondo. E dimmi se questo non basta per essere felici. Infatti, secondo me basta per essere felici, ma basta anche per farci una piccola pausa, bere un sorso d'acqua e ritornare in diretta qui su Radio Stonata tra pochissimo, Elena. A tra poco. Sei d'accordo, sì, vero? Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it. This is Radio Stonata. Il viaggio. Io ci provo, lui fa però non sono stonato e quindi lascio stare. Comunque lui era Lorenzo Giovanotti con Chiaro di Luna qui su Radio Stonata. Siamo ritornati in diretta sulla radio del più stona e più suona. Questo è Il Viaggio, io sono Beppe Sorbara, non sono solo, in mia compagnia c'è Elena Nebbiolo di nonsoloturisti.it. Con lei questa sera stiamo parlando di Colombia, abbiamo parlato del suo primo articolo, così l'abbiamo diviso in due parti la chiacchierata con Elena, appunto il primo articolo che trovate su Non Solo Turisti, dal titolo Il Viaggio in Colombia, il paese più felice del mondo. E ora invece, Elena, passiamo al secondo articolo. Buonasera innanzitutto e ben ritrovata. Ciao, eccomi, scusa, un attimo. Così. Che è successo? Dimmi, sei caduta? Sei caduta dalla sedia? No. No, mi è arrivato un messaggio, avevo buttato l'occhio sul messaggio e mi sono distratta. Lo possiamo sapere pure noi, sedia. Il messaggio? No, ma non era niente di importante, sai, faccio un momento che non c'entra nulla col viaggio, ma aprono tutti i negozi di Natale di Emergency in Italia, con i negozi di Natale, dedicati al Natale, ha aperto anche questo qua di Torino e quindi mi stavano scrivendo, insomma, le mie amiche volontarie. Quindi per chi vuole andare a fare un regalo e aiutare anche Emergency, questa è una buona cosa da fare, no? Assolutamente sì, penso che sia il miglior modo per comprare dei regali, perché i fondi vanno tutti destinati per gli ospedali in Afghanistan e in Iraq. Vedi? Che cose belle. Ho fatto questo piccolo momento promozionale, ma penso che sia una promozione quindi bene. Ma noi questi momenti promozionali li apprezziamo tanto, soprattutto quando si aiutano gli altri e le persone in difficoltà. Elena, invece ritorniamo proprio al vivo del secondo articolo. Quindi ti sei trasferito, cioè dovevamo più che altro capire i tuoi spostamenti, come hai organizzato il viaggio, perché comunque la Colombia è uno stato grande da visitare. Alcuni spostamenti li hai fatti anche in aereo, vero? Sì, assolutamente. Allora, come dicevo, Luca, questo ragazzo di cui io lascio il contatto negli articoli per chiunque volesse contattarlo, ci ha aiutato a definire l'itinerario e a capire come spostarsi. In Colombia è assolutamente necessario prendere dei voli interni, essendo un paese così grande. Noi ne abbiamo presi ben 5, quindi 5 voli interni. Il nostro viaggio è iniziato però nella capitale, dove siamo atterrati con il nostro volo intercontinentale, comprato molti mesi prima, perché ricordo, il Sud America in generale, forse Brasile un po' a parte, è una meta molto cara come voli, per cui per chiunque decida di visitare uno dei paesi del Sud America conviene muoversi prima per acquistare il biglietto aereo, perché sennò a ridosso della data diventano molto cari. Quindi noi abbiamo comprato con largo anticipo questo biglietto aereo e con Luca abbiamo definito l'itinerario, abbiamo acquistato i voli interni, ci siamo spostati anche con pullman, con navette, abbiamo utilizzato qualunque mezzo, anche con le barche in Amazzonia, però il nostro viaggio inizia a Bogotà, appunto, nella capitale. Quindi iniziamo... Che come dicevo, dimmi tutto. Quindi iniziamo da Bogotà, stavo dicendo. Iniziamo da Bogotà, sì. Ammetto che non è stata la tappa che io ho preferito in assoluto, ma perché è stato talmente bello e vario questo viaggio che è anche difficile fare una top dei primi posti. Diciamo che nelle prossime puntate mi dedicherò ai miei due posti preferiti del viaggio, che uno è stata la foresta amazzonica e l'altro l'Eje Cafetero, queste zone del caffè di cui parlavo prima. Però Bogotà è comunque una città che mi ha sorpreso tantissimo. Mi ha sorpresa molto, innanzitutto è la terza capitale sudamericana per altitudine. Hai sofferto problemi di ossigeno, cose, no? Cosa? Hai sofferto problemi di ossigeno? No. Cose, no. No, devo dire non ho sofferto, ma non avevo sofferto nemmeno in Perù, quindi forse io non faccio tanto testo perché non patisco l'altitudine, almeno non fino adesso, però ci potrebbe essere qualche scompenso appena atterrati perché si atterra a 2600 metri, infatti, quindi è veramente molto molto alta. Poi come raccontavo, l'ultimo giorno siamo anche saliti sul Cerro di Monserrate, che è una chiesa posta in alto sulle colline di Bogotà, dove si vede tutta la città dall'alto, lì si arriva addirittura a 3100 metri, quindi insomma delle altitudini importanti per essere una metropoli di 10 milioni di abitanti, tutta posta a questa altitudine, e già questo è una caratteristica molto particolare. E poi è proprio bello visitarla, ovviamente c'è il quartiere principale, anche quello più turistico che tutti conoscono, della Candelaria, che ha questi palazzi coloratissimi, ma soprattutto quello che mi ha impressionato sono i murales. Ci sono murales su tutte le case, murales fantastici, io ne ho inserito qualcuno, qualche foto nel mio articolo, ma ti assicuro ne ho scattati tantissimi perché erano tutti molto affascinanti. Questo rende molto viva una città, ti fa capire quanto la popolazione partecipe della città. Quindi vai. Ci continuiamo a interromperci, dimmi tutto. No, vai tu, tranquilla. La domanda no, dicevo. Dicevo che nel quartiere della Candelaria, oltre però ai palazzi colorati, a questo quartiere coloratissimo, c'è Plaza Simón Bolívar, che invece ha un aspetto molto regale, molto bello, che è la piazza principale. Racconto nell'articolo, tra l'altro, attenzione, tutte le piazze in Colombia si chiamano Simón Bolívar, è in assoluto l'eroe nazionale più riconosciuto, quindi è difficile arrivare in un posto che non abbia una piazza Simón Bolívar. Ce l'ha anche Bogotà, e questa è la parte dove ci sono dei palazzi del Settecento, tra l'altro tenuti benissimo, anche la cura comunque del patrimonio artistico che hanno non è una cosa indifferente. E il colore che prevale dalla questa fotografia che hai fatto da 3000 metri, mi sembra che è l'azzurro, il celeste, sì. Sì, ci sono tante case celesti, queste sono più nella periferia, diciamo che in generale sai, è una città che ha anche tanti grattacieli, quindi forse dall'ultima foto si vede proprio come c'è un polo legato comunque al business con dei grandi grattacieli. C'è anche il lato nord della città, per esempio è estremamente ricco con tutti i negozi che possiamo conoscere, le grandi catene di stilisti, insomma una città veramente da... Parlavo anche delle piste ciclabili, è la città sudamericana con la più lunga rete di piste ciclabili, fanno molto in bici, nonostante, ecco però questo devo dirlo, il traffico resti una cosa delirante, ma veramente delirante, uno sa quando parte ma non può assolutamente prevedere quando riesce a uscire da quella città. Ma una domanda te la posso fare, ma i musei li hai visitati? Chissà perché sento che vuoi arrivare da qualche parte. No, io chiedo, sai, in un articolo... Ma io sarò sincera, perché lo sono anche nell'articolo, anche se non spiego benissimo il perché. Infatti, allora, ti do l'opportunità di spiegare anche il perché, quindi va bene anche questo, dai. Sì, che non me ne voglia l'artista, anche se non me ne può più volere, però... che non me ne vogliono soprattutto gli appassionati di questo artista. Comunque, il primo museo da vedere assolutamente a Bogotà è il Museo dell'Oro, è uno dei musei più belli dell'intero Sud America, è veramente ricco di opere, cioè, parliamo di 55.000 reperti legati all'età dell'oro, proprio per questo il Museo dell'Oro, e si ripercorre attraverso questi oggetti tutta la storia colombiana prima della dominazione spagnola, quindi davvero un museo che a me ha appassionato tantissimo. E poi ovviamente c'è l'altra tappa fissa, l'altro museo molto famoso, che è il Museo di Botero, dove io scrivo nell'articolo, visto che io ero con amici in viaggio, che ho aspettato i miei amici fuori. E tu mi chiederai, ma perché non sei entrata nel museo di Botero? Ok, domanda fatta. Io non sopporto le opere di Botero, non sopporto, mi inquietano, mi creano un senso di inquietudine che poi sapevo che non mi sarei tolta tutto il giorno. Ah, okay. Per cui ho preferito aspettare fuori, i miei amici sono andati a vederlo, sono stati, tra l'altro non ne voglio parlare male perché a loro è piaciuto tantissimo. Infatti dovevamo sentire i tuoi amici sul museo di Botero. Assolutamente, è che è un problema mio, e ognuno ha le sue fissazioni e io ho detto no ragazzi, veramente, e considera che era persino compreso nel tour che stava facendo, quindi non dovevo nemmeno pagare per visitarlo, non è che dici hai fatto quella braccina che non voleva spendere i soldi, no, io non sono entrato per non avere quel senso di inquietudine, perché questi personaggi tutti tondi. E devo avere qualche trauma infantile. Infatti, mi sembra che qualche tondo ti è caduto addosso. Ma invece, torniamo all'articolo. Ci siamo sempre rimasti sull'articolo. Però la domanda d'obbligo è: questa splendida foto di apertura, che cos'è, Elena? Raccontaci. La foto di apertura. Sì, quella che allora ci troviamo sopra, c'è sotto c'è il titolo e sopra c'è questa splendida foto. Sì, ho capito quale foto è. Allora, circa un'ora e mezza, noi abbiamo fatto anche questa gita fuori porta, uno dei giorni che eravamo a Bogotà, a Zipaquirá, che è un posto che si trova circa un'ora e mezza, un'ora da Bogotà, anche lì come al solito, dipende dal traffico, quanto ci si mette a uscire da quella città, che è già di per sé un paesino molto carino, Zipaquirá. Ma soprattutto è famoso per la Cattedrale del Sal, che è un luogo di culto sotterraneo scavato nel sale, ed è una cosa impressionante. Si trova a 180... All'inizio, tra l'altro, ti dirò, la visita parte un po' in sordina e tu ti dici, ma tutto qui? Perché il percorso è una sorta di via crucis che man mano ti fa scendere, sì, ci sono queste statue, queste croci scavate nel sale, e dici vabbè, che sarà mai, cioè che sarà mai, non entusiasma. Si arriva alla fine di questo percorso, appunto si ritrova a 180 metri sottoterra e ci si trova davanti a quella che è la vera e propria cattedrale. Stiamo parlando di una cattedrale che è lunga 75 metri e può ospitare fino a 8.500 persone. Quindi credo che i numeri mi servono solo per dare l'idea di quanto sia immensa. Poi questo sistema di luci, per cui c'è questa croce enorme, retroilluminata, un gioco di luci tra il rosa e il blu, devo dire un vero capolavoro. È davvero impressionante. E io vi devo dire che se non l'avete fatto, tra pochissimo sulla pagina In Viaggio troverete il link dei due articoli di cui ne stiamo parlando con Elena. Andate, cioè io appena ho visto queste, ho letto questi articoli, ho visto queste foto, cioè io sono rimasto impressionato dalla bellezza. Ora, dal racconto anche più nei particolari, appunto, che trovate anche sull'articolo, ma che ci ha raccontato Elena proprio con la sua viva voce, vi rende tutto spettacolare e immenso. Cioè, pensare che si trovi a 180 metri questa cosa di profondità sottoterra è fantastico. Elena. Sì. Poi l'articolo, tu comunque, ritorniamo sempre sul tema sicurezza, lo affronti anche il tema sicurezza sul chiusura di questo secondo articolo, appunto sulla Colombia e su Bogotà. Ne vogliamo riparlare ancora per chi si è appena collegato, cioè per chi non ha sentito la prima parte? Cioè, è sicura comunque la Colombia? Questo qua è un messaggio che possiamo lanciare. Sì, anche questo è il mio secondo messaggio promozionale di questa seconda parte di intervista. No, è davvero un paese sicuro, però anche qui bisogna andare cauti, nel senso che quando si parla, allora, tutto il resto del paese mi sento di dire è assolutamente sicuro, non abbiate paura, non ci sono pericoli, poi qualunque cosa può succedere sempre, ma anche nella vita di tutti i giorni. Però ovviamente Bogotà è una metropoli di 10 milioni di abitanti, per cui la cautela, l'attenzione, il non tenere cose oro addosso, cose vistose o care. Questa è una raccomandazione che io faccio a qualunque viaggiatore visiti una qualunque metropoli, ma anche italiana o europea, se devo dire la verità. Non, quindi secondo me non vanno prese delle accortezze diverse da quelle che si prendono in qualunque grande città. Bisogna stare allerta sicuramente, ma io non ho avuto questa percezione di pericolo. È chiaro, ho vissuto lì 3 giorni, magari ci sono persone che la vivono quotidianamente che possono raccontare una storia diversa, ma come ti dicevo fuori dalla diretta, io stessa potrei raccontare di Torino degli aspetti diversi che se uno visita solo il centro città non percepisce. Sì, infatti, no, ma in tutte le grandi città e anche nelle piccole città comunque ci sono le zone in cui uno durante la visita deve prestare molta attenzione. Elena, io non lo so se hai altro da aggiungere, se no rinnovare l'appuntamento al prossimo fine settimana e naturalmente se ci vuoi dare qualche news di che cosa parleremo il prossimo fine settimana qui su Radio Stonata. Allora, oppure se ci vuoi tenere sì, voglio fare un po' di promozione al mio prossimo intervento, ma perché ci tengo tantissimo. Io non ero mai stata nella foresta amazzonica, quindi nella prossima puntata vi porto nella foresta amazzonica. È stata una delle mie esperienze di viaggio più belle in assoluto, quindi sarò molto contenta di raccontarvela, di dirvi che cosa ho visto, che cosa ho fatto, e ci sono stati dei momenti, un momento in particolare di un'intensità pazzesca e non vedo l'ora di raccontarvelo. Ok, quindi siamo pronti, saremo tutte orecchie ad ascoltare il tuo prossimo intervento qui su Radio Stonata, sabato prossimo naturalmente. Elena, per adesso grazie e a sabato prossimo. Grazie a te Beppe e ci sentiamo allora tra una settimana. Viaggia con la mente e scopri non solo turisti.it, il portale dedicato a chi ama viaggiare. Destinazioni, interviste, consigli per chi ama scoprire il mondo. www.nonsoloturisti.it